24 mattino. Ritorniamo insieme, Irene Zerbini al microfono, 16 minuti trascorsi dopo le 8, ma lo stiamo per cedere il microfono tra pochissimo a Soldi e dintorni. Compriamo pesce convinti di acquistare un prodotto, non strano, in realtà il Mediterraneo si svuota e ormai quasi la metà del pesce è d'allevamento. Perché? È uno dei temi che tratteremo alle 8:30. Ora però Soldi e dintorni con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. E allora buongiorno Irene, buongiorno. So che andremo a caccia di bagagli. Sì, infatti non stavo pensando di pesce stamattina, che si pesca e non si caccia. Pare più divertente il siparietto di quelli che faccio con Alessandro stamattina, mi hai preso la sprovvista. Ma che pesci dobbiamo pigliare? Comunque, guarda, a caccia di bagagli, perché sì, sì, sono cifre inquietanti quelle che mi hai fornito. Sì, e sono state riportate ieri mattina da tutti i giornali. Ogni giorno negli aeroporti di tutto il mondo vengono persi 90.000 bagagli, di questi 10.000 solo in Europa. La frequenza di smarrimento è di un bagaglio ogni 64 passeggeri e di questi sventurati il 15% non riceve il proprio pacco, chiamiamolo così, entro 48 ore ne ha ricevuto un altro e addirittura il 10% lo smarrisce definitivamente. Noi questa mattina, più che commentare queste percentuali, vogliamo cercare di capire cosa fare qualora, visto che adesso in molti siamo in procinto di partire, stiamo dedicando molte puntate di Soldi e dintorni a tutto ciò che ci può capitare in vacanza, a tutelarci in modo tale che le nostre vacanze possano andare al meglio. Allora, più che commentare le percentuali, cerchiamo di capire perché tutto questo accade, quali sono le compagnie che sono ritenute più a rischio e soprattutto i risarcimenti a cui abbiamo diritto se la nostra vacanza viene rovinata proprio perché non ci arriva a destinazione la valigia. Prima di tutto cominciamo a toccare ferro con l'avvocato Vittorio Bonaguidi, che è avvocato di Telefono Blu, responsabile per questa associazione dei consumatori che gestisce proprio tutte le problematiche del turista. Avvocato Bonaguidi, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere tornato tra di noi, molto spesso ospite dell'altra nostra trasmissione Salvadanaio. Questa mattina lo abbiamo fatto debuttare anche di mattina presto. Allora, intanto ha visto anche lei, no, quanta enfasi ieri mattina sui giornali è stata data a questa indagine della Commissione Europea, che ancora una volta ha voluto fare questo monitoraggio su quanti bagagli vengono smarriti ogni anno. Tra l'altro noi avevamo già affrontato questo argomento in marzo, quando era stata proprio stilata la classifica, come dire, delle compagnie che sono ritenute più a rischio, e in cima a questa classifica c'è una compagnia portoghese, poi magari ci ritorneremo. E all'epoca l'ENAC aveva diffuso anche la carta dei diritti del passeggero, anzi era stata diffusa la versione aggiornata di questa carta, e magari adesso diamo anche indicazioni su dove trovarli in modo tale che si possa partire anche dal punto di vista psicologico ed emotivo protetti, perché si ha coscienza dei nostri diritti. Avvocato Bonaguidi, perché se ne smarriscono così tanto? Cosa succede negli aeroporti? Ho fatto attenzione anch'io, abbiamo fatto attenzione anche noi all'articolo di stampa apparso ieri su moltissimi quotidiani. In effetti si ripropone in quest'epoca il tema dei bagagli smarriti, perché è effettivamente statisticamente è elevatissimo il numero di queste situazioni che si verificano negli aeroporti. Ma le cause sono fra le più diverse. Quella che mi viene in mente di più, o che ha più incidenza statistica, è quella della disorganizzazione, a mio avviso, al di là poi degli episodi eclatanti che erano emersi alle cronache, che erano insomma, ecco, anche sostanzialmente delle organizzazioni clandestine, definiamole così, si erano attivate per rubare, insomma, per sì, commettere infatti degli illeciti, quindi questo era emerso alle cronache. Però sostanzialmente c'è una diffusa a volte meccanismo di disorganizzazione in molti aeroporti, quello che colpisce a volte anche questa incidenza di queste situazioni nelle tratte meramente interne italiane, ad esempio, no? Quindi nei trasferimenti interni in Italia e semplicemente senza quindi recarsi in tratte più lunghe all'estero. Certo, ecco. Perché magari può capitare ovviamente di dover raggiungere una località molto, molto lontana, dover fare due o tre scali, quindi in questo caso è chiaro che avviene lo scambio del bagaglio da un aereo ad un altro, ma è chiaro che quando le tratte sono brevi, i voli sono brevi, la perdita del bagaglio, lo smarrimento è sicuramente molto meno giustificato. E allora, tra l'altro, quando capita più spesso, avvocato Bonaguidi? Quando decolliamo, quando atterriamo? Leggevo che in realtà realtà la probabilità è la stessa, il 49% è riferito a voli di coincidenza quando si deve fare il cambio volo, per il resto si parla appunto dei voli diretti. Sì, in effetti risulta un'incidenza quasi uguale, quindi sia in partenza, sia quindi all'andata, cosiddetta andata, che al ritorno. È evidente che però da un punto di vista anche, visto anche da un punto di vista psicologico, quindi ricollegandoci all'impatto psicologico anche della vacanza per il turista, subire questa circostanza all'andata ha un sapore nettamente diverso che subirla al ritorno, quindi se consideriamo che probabilmente i tempi medi di ritrovamento di questi bagagli possono essere dai 3 ai 7 giorni per molti metà vacanza è andata, se va bene, se non tutta, certo. Esatto. Avvocato, allora cerchiamo di capire intanto cosa possiamo fare per evitare che il nostro bagaglio possa essere definito un bagaglio a rischio smarrimento. Allora, io le racconto cosa è capitato a me quando io, per l'unica volta, e speriamo che sia l'ultima, l'ho smarrita. Mi capitò tantissimi anni fa un viaggio da Londra a Bologna, 2 ore di volo, sì, e riuscirono a smarrire la mia valigia. Devo però dire che io mi imbarcai tardissimo, sono arrivata tardissimo all'aeroporto di Londra, pertanto ci ho messo anche del mio. Io il primo suggerimento che do, proprio perché l'ho vissuto sulla mia pelle, è quello di non imbarcarci all'ultimo momento. Poi cosa possiamo fare? Per esempio, non so, rendere la nostra valigia molto riconoscibile, metterci stelline lampeggianti, che cosa possiamo fare? Ma è vero, allora sostanzialmente il primo suo suggerimento è opportuno. Il secondo che possiamo fare è ovviamente avere un bagaglio che sia abbastanza riconoscibile, almeno ai nostri occhi, e comunque anche un bagaglio di colore abbastanza vivo. Sostanzialmente poi molto importante sono le etichette che si applicano al bagaglio di riconoscimento, quindi che siano compilate per bene e che siano assolutamente integre nella loro compilazione, in maniera tale che se dovesse succedere l'inconveniente di cui stiamo discorrendo, sostanzialmente magari anche l'operazione di reperimento è più facile per i soggetti incaricati all'interno delle aree aeroportuali. Certo, addirittura leggevo che è bene prendere anche altre precauzioni, come per esempio, intanto ovviamente, siccome sono tutti a rischio smarrimento, perché poi ovviamente anche con tutte le precauzioni del caso qualche disavventura può capitare, cerchiamo intanto di metterci del contenuto che, se viene perso del tutto, non sia per noi un dramma. È chiaro che le cose di valore è bene non metterle in valigia, ma io direi che questa è un'indicazione di buonsenso che forse non è neanche necessario dare ai nostri ascoltatori. Però leggevo addirittura che qualcuno suggerisce, avvocato, di fotografare la valigia e anche possibilmente il contenuto, ma questo poi vale per esempio per un eventuale risarcimento, perché c'è questa indicazione anche? Ce la dà peraltro l'ENAC, se non sbaglio, proprio nella carta dei diritti del passeggero. È corretto questa cosa, è corretta, perché fotografandone il contenuto si riesce a fornire integrale, quindi in versione integra, la prova del contenuto del bagaglio. Questo è molto importante nel caso succedesse poi la circostanza malaugurata dello smarrimento anche definitivo del bagaglio, perché con questo tipo di prova possiamo essere più agevolati nel risarcimento che andremo a chiedere alla compagnia aerea, che se in circostanze, appunto, come si diceva prima, rare, nel senso in circostanze dove il bagaglio contenga degli oggetti di valore, ovviamente ha un sapore per il passeggero notevolmente più elevato, perché è gravato di questo onere di dimostrare che ha un bagaglio di valore nettamente superiore a quelli che sono i diritti speciali di prelievo che vengono rimborsati, cioè il risarcimento effettivo che viene dato a chi subisce questa situazione, che è fino a 1000 diritti speciali di prelievo, che ci corrispondono a circa 1000 euro, 1167 euro. Peraltro, avvocato, leggevo anche che in realtà teoricamente abbiamo diritto ad un risarcimento anche se lo smarrimento dura qualche giorno e poi, diciamo, in pochi giorni la valigia ci viene restituita. Comunque il danno emotivo c'è stato. Assolutamente sì, è il cosiddetto, utilizziamo sempre il termine più conosciuto anche alle cronache, il danno da vacanza rovinata, quindi c'è un danno morale, sicuramente il passeggero, il turista ha subito un danno, perché appunto, come dicevamo, soprattutto se lo subisce in fase di partenza, quindi di andata, l'impatto emotivo è notevole, perché è un disturbo e un fastidio molto elevato, ecco, un punto psicologico e da un punto di vista anche concreto. Anche da danneggiamento del bagaglio in realtà si può ottenere un risarcimento, si può fare una richiesta di richiesta risarcimento. Sì, sì, assolutamente sì, è corretto. In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dall'arrivo sostanzialmente, quindi dal ritorno, si può inviare un reclamo scritto, quindi attenzione, se succede all'andata entro 7 giorni dall'arrivo nella località e al rientro pure entro 7 giorni si può inviare appunto un reclamo scritto alla compagnia aerea allegando copia di un modulo che si deve compilare, che si ritira all'ufficio appunto Lost and Found, che sono ufficio oggetti smarriti di ogni aeroporto, quindi ogni aeroporto è dotato di questo ufficio. Un'ultima considerazione, avvocato, prima di salutarla e augurare anche a lei naturalmente buone vacanze con tutte le valigie naturalmente, ma soprattutto questo lo auguro a me perché devo fare un viaggio un po' complicatino quest'anno. Quando il nostro bagaglio si è smarrito, appunto, abbiamo intenzione di chiedere risarcimento, a chi va chiesto in genere, la compagnia aerea con la quale abbiamo viaggiato oppure dobbiamo andare in aeroporto? No, allora dobbiamo chiederlo previa compilazione, come si diceva, di questo modulo da ritirare a quell'ufficio oggetti smarriti, Lost and Found. Dobbiamo chiederlo alla compagnia contrattualizzata, cioè con la quale abbiamo fatto il contratto, quindi abbiamo acquistato il volo, oppure alla compagnia con la quale abbiamo volato sostanzialmente, ecco, se non è coincidente con quella contrattualizzata. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro buone vacanze. Grazie a voi, altrettanto. Ci risentiamo magari al ritorno a settembre per fare così anche una piccola statistica e valutare quanti dei nostri turisti ascoltatori di Radio 24 avranno perso la valigia e cosa devono fare per poterne rientrare in possesso. Irene? E come la devono fotografare? Perché stavo pensando cosa inserire prima della foto, cioè se io piazzo 3 lingotti d'oro, scatto una foto, poi li rimuovo, li ritordo, la chiudo. Esatto. No, in realtà abbiamo dato l'indicazione di non mettere cose di valore, perché proprio così se dovesse andar persa, però sai, a me anche se perdono una piccola canottiera della vacanza... Sai che potrebbe essere anche salutare, perché poi si scopre che si vive benissimo anche senza. Sì, esatto, ma abbiamo sempre l'impressione di andare in posti, in località dove non si possa comprare niente, ma come dicevo anche prima a microfoni spenti con l'avvocato, non abbiamo... Andiamo mica nel deserto, qualunque località si può ricomprare tutto. E questa anzi, è la verità, molto divertente, troppo attaccate alle nostre cose. Esatto. Senti, in Salvadanaio, Deborah Rofani, sì. Oggi cosa fa? Guarda, ti ricordi il tema che abbiamo fatto ieri mattina a Soldi e Dintorni, il fabbro che ci fa pagare il salato, il conto? Oggi lo rifacciamo a Salvadanaio e sentiremo le testimonianze di chi magari è incappato in disavventure di questo tipo, l'elettricista a Ferragosto, il conto salato, insomma, che ci fa pagare. Purtroppo testimonianze, temo, numerose. Grazie a Deborah Rofani. E in primo piano oggi Obama ha preso la parola per dire siamo più vicini alla fine della crisi, ancora dura, ma ora vediamo l'uscita, secondo il presidente statunitense. Il sud slitta il piano, ma per la Sicilia ci sono 4 miliardi in arrivo. La scuola frena la Lega, non parlavamo di dialetti, ma solo test regionali per professori. I mondiali di nuoto, il bis d'oro della Pellegrini naturalmente sempre in grande rilievo e Schumacher che torna al volante della Ferrari. Il tedesco ha affidato il suo pensiero ai suoi collaboratori, cioè non ha parlato direttamente, però ha fatto dire che l'importante è che Massa stia bene. Poi ha spiegato che il vero motivo del suo rientro, malgrado la lunga pausa in Formula 1, ha detto era giusto aiutare la squadra nel momento del bisogno, una notizia clamorosa nel mondo dei motori. Noi oggi invece ci occuperemo di immigrazione, un'altra offensiva della Lega, chiudere gli ambulatori per clandestini, questo è uno dei titoli del giornale Il Piccolo, perché proprio da Trieste arriva questa notizia. Gli ambulatori che in Friuli, Venezia e Giulia assicurano assistenza sanitaria, attenzione anche agli immigrati clandestini. La Lega Nord ha chiesto alla regione e se non arriveranno risposte certe in consiglio regionale è pronta addirittura a far intervenire le procure, perché sostiene la Lega quelle strutture sono fuori legge, dunque i magistrati che verrebbero chiamati in questo caso a fermare la mano del medico. Ma ne parliamo immediatamente con l'assessore alla salute e protezione sociale per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, benvenuto a Vladimir Kosic. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Senta Kosic, lei è il destinatario di questa interrogazione della Lega. Cosa si sente di rispondere? In verità abbiamo già risposto. C'è stata l'approvazione della legge in materia di sicurezza numero 94, che però non va a negare quanto dice l'articolo 35 della legge del decreto legislativo 2000, 2856 del 98, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, che dice appunto che per ciò che riguarda l'assistenza sanitaria, il Servizio Sanitario Nazionale deve ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme della direttiva d'ingresso e soggiorno, assicurare nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali, ospedaliere, urgenti. Dunque, esprimiamo cosa dice le ragioni della Lega. Tra l'altro lei fa parte di una giunta. Dire io? Sì, posso sì, dire sì. Io? Sì. Ma io direi che è una diagnosi che in qualche maniera si può anche condividere, che il problema esista, non si può negare. Questo è il dato sicuramente certo, perché laddove ci sono questi problemi vanno anche colti e anche compresi. Quindi la diagnosi potrebbe essere condivisa. Quello che non va bene è la terapia che è prevista da alcuni consiglieri. Aspetti, prima di andare alla terapia, Kosic, un istante. Per chi ci ascoltasse e non avesse alcuna familiarità con questi fatti, non leggesse Il Piccolo di Trieste, cosa succede? La nuova legge sulla sicurezza, in particolare l'articolo 1,22, la lettera G, introduce l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per richiedere atti di stato civile, tra i quali sono normalmente inclusi gli atti di nascita. Però sono esclusi da questo obbligo gli atti inerenti alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche. La Lega dice: da poco c'è il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Dunque, prestare assistenza anche sanitaria a chi non ha le carte in regola, a chi non ha il permesso di soggiorno, è in palese contrasto con lo spirito di questa legge. E prima di tornare all'assessore Kosic, vorrei parlare con qualcuno che questa assistenza sanitaria la presta. È un medico, si chiama Salvatore Di Giacomo ed è un volontario presso l'ambulatorio di Pordenone. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottore, lei ha dormito stanotte? Sì. Nonostante sia un fuorilegge? No, ma io non sono un fuorilegge, perché da quello che mi è stato detto, per me è che possono o devono, è la solita dizione italiana, possono denunciare o non possono denunciare. L'Ordine dei Medici Nazionale si è espresso chiaramente dicendo che i medici sono obbligati, cioè più che altro sono obbligati a curare uno che sta male, e questo mi pare che dalla Costituzione è previsto, e anche l'articolo 35 che citava l'assessore non è stato cancellato, il comma 5. Io adesso non voglio premere il tasto emotivo dei bambini, voglio invece fare un'altra riflessione. Quanto oggi viene invocato dalla Lega riguarda i clandestini? Però a volte si è clandestini non perché criminali, ma perché in attesa di rinnovi, di documenti o per allucinanti ritardi burocratici. Pensiamo a paesi dove queste norme esistono, invece di spaccarci dal punto di vista ideologico, perché la Lega non ha inventato niente. Prendiamo il Canada, per esempio, cioè dove un'atleta italiana si è fatta male durante una trasferta, è stata tenuta ora in pronto soccorso in preda a dolori finché l'allenatore ha recuperato una carta di credito perché lei non era coperta. Ed è un caso che si ripete mille volte al giorno, qui stiamo parlando del Canada. Ora vorrei farvi sentire questa dottoressa, un medico italiano trasferita in Canada, che si è trovata a gestire addirittura la propria interruzione di gravidanza spontanea che le è accaduta. Sentite questa testimonianza. Tutti parlano del Canada come un paese civile. Io sono arrivata qua 10 anni fa e purtroppo mi è successo, ero incinta e ho perso il bambino. Mi sono presentata in ospedale d'urgenza dicendo che avevo bisogno assolutamente di vedere un medico, e la prima cosa che mi hanno chiesto è stata la carta di credito, in quanto dovevo, solo per parlare con un medico, avere $500, dopodiché ci sarebbero state la visita, altri $500, eccetera eccetera. E questo perché lei non aveva il permesso di soggiorno? Non avevo il permesso di soggiorno e non avevo la health card, la tessera sanitaria. E per cui questa era l'unica procedura possibile. Perché lo ricordiamo, questa health card, visto che il Canada ha una copertura sanitaria universale, è rilasciata la tessera sanitaria solo in concomitanza con il permesso di soggiorno, per il quale la dottoressa aveva fatto domanda, ma era in attesa di ricevere la risposta, le solite lungaggini burocratiche. Esatto. Quindi lei è andata a casa, poi cosa è successo? Praticamente sono andata a casa e ho monitorato io la perdita del bambino, misuravo la discesa dell'ormone. Io sono un biochimico clinico, per cui... Quindi questa situazione di negare l'accesso sanitario a chi non ha un permesso di soggiorno, cioè di mettere in correlazione la copertura sanitaria con il permesso di soggiorno, può creare... È disumano. È disumano perché io sono riuscita a gestirmi da sola, ma non so, un'altra donna o un'altra persona, magari con un braccio rotto o con qualcos'altro, cosa avrebbe fatto? E dunque, dottore, questo è un altro medico come lei, che forse prima non aveva, si era mai trovata a riflettere su queste situazioni, ma a volte clandestini lo siamo anche noi all'estero. Lei che tipo di persone vede nell'ambulatorio di Pordenone? Dove... Io, come ho detto, io vedo dei poveri cristi, perché i criminali sicuramente non vengono in un ambulatorio, hanno altre vie per farsi curare, quindi quelli che arrivano qua sono dei poveri cristi che non hanno ancora lavoro, sono dei clandestini, usiamo il termine clandestini, diciamo non sono in regola con la legge. Però adesso mi dicevano che in questo momento stanno diventando clandestini, e se usiamo questo termine, tutte le persone che stanno perdendo il posto di lavoro per la crisi economica che c'è, e che superati 6 mesi, se non trovano un lavoro, non sono in regola e quindi sono dei clandestini, per cui secondo la legge attuata, la legge che è stata promulgata, diventano dei clandestini, quindi dovrebbero essere espulsi. Quindi lei per quante ore svolge questa attività di volontariato? Io svolgo assieme ad altri 2 colleghi 2 ore il martedì alla mattina e 2 ore il giovedì sempre alla mattina, dalle 10 a mezzogiorno. Allora torno all'assessore, 2 ore e 2 ore, quindi 4 ore alla settimana. Vladimir Kosic, assessore alla salute della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ma anche in termini di costi quanto può pesare sul servizio sanitario? Assessore. Ma non è questo il tema, mi scusi. Il tema, come le dicevo, è che la diagnosi va fatta e va compresa, dopodiché la terapia non può che passare attraverso il rispetto delle leggi della Repubblica, è quello che facciamo anche in questa regione, come le stavo dicendo. Quindi aggiungere toni emotivi comunque in questo momento non credo che ci aiuti. Fare tutto questa contrapposizione anche di tipo ideologico, dove sempre che i buoni siano da una parte e i cattivi dall'altra, non è così. Io ribadisco, va compresa la situazione di chi effettivamente si trova anche in una situazione di accoglienza con un numero di immigrati notevole, va compresa, e questa è la diagnosi che va in qualche maniera sottolineata. Sulla terapia, la terapia non può che passare attraverso il rispetto delle leggi. Abbiamo citato l'articolo 35 in precedenza e si sono espressi anche gli organi dei medici italiani. Io sto facendo nulla di più che rispettare le leggi. Posso dirle di più, se vuole, ma in sintesi, forse di questi ambulatori non c'è neanche bisogno. È discrezione dei direttori generali farli o meno, così come discrezione dei direttori generali fare il pronto soccorso al primo piano, al piano terra o al quinto piano. Risponderanno loro poi di come si rapportano. Possono anche farlo, non è che è vietato. Però al momento io le dico che non ci sarebbe neanche bisogno di questi ambulatori, perché la legge italiana già copre e garantisce il diritto alla salute a tutti coloro che sono in questo paese, al di là di ogni valutazione possibile. Non mi sembra molto corretto comunque fare confronti con altri sistemi a livello mondiale, perché ogni popolo ha il diritto di scegliersi il proprio sistema. Il nostro è un buon sistema a livello nazionale, a livello regionale, funziona e per ora dà diritto, garantisce il diritto alla salute a tutti. Quindi per ora lei dice c'è questa garanzia e quindi la regione Friuli Venezia Giulia non sta violando alcuna legge, non c'è nessun contrasto. No. Assolutamente no. E quindi questo va sottolineato ed è una sottolineatura importantissima, così che anche voi medici, mi rivolgo ora al dottor Salvatore Di Giacomo, sappiate che state assolutamente nei termini della legalità. Però, dice l'assessore, non ci sarebbe neanche bisogno di ambulatori particolari, perché questo servizio dovrebbe essere garantito ovunque, dottore. Questo è stato discusso quando noi abbiamo, assieme ai direttori generali dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera, assieme alla Caritas, abbiamo discusso, era anche per alleggerire il lavoro dei pronti soccorsi, perché se questi qui vengono in ambulatorio non vanno in pronto soccorso. Uno dei motivi era questo. È chiaro, va ricordato anche naturalmente l'interesse della collettività, qualcuno l'ha fatto notare in questi giorni, di spaccatura ideologica, soprattutto in Friuli Venezia Giulia si sono schierati su questi temi, l'europarlamentare Deborah Serracchiani che si è detta pronta di ricorrere fino alla Corte dei diritti dell'uomo per garantire i diritti fondamentali della persona, e ancora ci sono stati altri interventi che hanno sottolineato queste violazioni dei diritti umani. Dunque, naturalmente tutto il dibattito, soprattutto a livello locale, è stato infervorato da diversi interventi, ma a noi interessa capire dal punto di vista di chi è in prima linea, come Salvatore Di Giacomo, come lei che è un dottore, che è lì, se secondo lei questo servizio è un'esigenza, è necessario ed è imprescindibile sul territorio. Noi l'avevamo fatto per, come ho detto prima, per alleggerire il lavoro dei pronti soccorsi, poi per dare, essendo noi medici volontari e anche espressione della Caritas, noi si era dato un'accoglienza anche sanitaria a queste persone che arrivano in Italia senza niente. Quindi se hanno bisogno di qualcosa non si rivolgono, diciamo, a una struttura pubblica, tra virgolette, che può creare delle paure. Tant'è vero che ultimamente sono drasticamente calate le persone che accedono all'ambulatorio, perché il messaggio che è passato attraverso la stampa, attraverso i media, è quello della paura. Sì, per timore. Sì, voi sarete denunciati e sarete espulsi. Questa anche se non è così, è meglio non correre rischi un po', e questa è la riflessione che in questo tipo di situazioni purtroppo inevitabilmente si fa. Ed è molto importante che un certo tipo di malattia anche non finiscano nel sommerso, non finiscano così non monitorate, proprio per questi timori che si diffondono. Grazie dottor Salvatore Di Giacomo, lo ricordiamo, un medico volontario presso l'ambulatorio di Pordenone. Naturalmente grazie anche all'assessore alla salute e alla protezione sociale per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Vladimir Kosic. Buona giornata. Guarda che mare. Ma guarda che mare, perché è un mare sempre più vuoto. E allora, che pesci pigliare? Questo non è un dilemma esistenzialista, abbiamo cambiato pagina completamente per occuparci, insieme a Cinzia Scaffidi, autrice appunto di un volume, Guarda che mare, come salvare una risorsa, edito da Slow Food, di questo impoverimento del mar Mediterraneo. Buongiorno, benvenuta Cinzia. Buongiorno a voi. La richiesta di pesce nel mondo è in aumento, 110 milioni di tonnellate all'anno. Dunque, entro il 2030 si prevede almeno 80 di questi milioni di tonnellate dovranno provenire da allevamento. Secondo lei andiamo in questa direzione e non c'è modo di invertire la rotta? A me piacerebbe pensare che si può invertire la rotta cambiando un po' i consumi, nel senso che questa richiesta di pesce è una richiesta che non è in sé spropositata, il problema è che insiste su poche varietà, perché i consumatori hanno preso l'abitudine di pensare al pesce così come pensano alla carne, solo che la carne c'è qualcuno che la produce con ritmi che decide lui, mentre il pesce nel mare mantiene ancora, per fortuna o per, insomma, decidiamolo, i ritmi di madre natura. Allora se si riesce a pensare alla pesca come ad un prelievo da risorsa naturale e non come ad una produzione, allora magari ci si mette anche nell'ordine di idee che non si può andare a comprare il pesce con lo stesso atteggiamento con cui si va a comprare la carne, cioè decidendo prima che cosa si vuole. Bisognerebbe andare al mercato del pesce come si va per funghi, cioè uno esce, va a vedere cosa c'è, cosa riesce a trovare, cosa i pescatori hanno trovato quel giorno. E in base a quello adegua la sua dieta. Senta, ma l'Italia ha 7.375 chilometri di costa, quindi quando si va al mercato del pesce che lei ha menzionato, si immagina comunque di acquistare un prodotto che proviene dai nostri mari, dalle nostre coste. In realtà è così solo in una percentuale molto ridotta dei casi. Da dove viene questo pesce? Naturalmente quando si va a comprare il pesce in banchina o all'asta del pesce, insomma, quando si va a comprare il pesce dove arrivano i pescatori. Evidentemente questi sono appena arrivati dal mare e lì non si può avere dubbio. È chiaro che se ci si rivolge alla grande distribuzione invece si entra in un circuito che è un circuito del pesce che ha fatto chilometri, quindi che può essere pesce che è arrivato ai grandi poli di distribuzione che sono Milano, che sono San Benedetto, che sono Chioggia e poi magari è ripartito alla volta di altri paesi o è arrivato da altri paesi e poi è andato anche nei supermercati. E quindi come si fa a tutelarsi? Ma tutelarsi dipende da che cosa, nel senso che se uno vuole mangiare soltanto pesce locale e pesce pescato, allora deve metterci un pochino di impegno, deve andare a comprare da pescatori o rivenditori, da pescivendoli di fiducia a cui si possano fare domande. Noi abbiamo sviluppato una ingiustificata timidezza nei confronti di chi ci vende il nostro cibo e tendiamo a pensare che qualunque domanda sia un po' una mancanza di rispetto, invece no, dobbiamo chiedere, dobbiamo informarci, dobbiamo essere visto consapevoli, che poi, dunque domandare noi, e quindi insomma decidere dove vanno i nostri soldi è un atto anche di carattere politico, quindi io quando pago la mia spesa appoggio un determinato tipo di politica alimentare, di sviluppo, di agricoltura, di, in questo caso di protezione dell'ambiente. Sì, sì. Poi se si pensa che il cibo è un attorno al cibo e al pesce ruotano poi i più grandi affari. Il 40% della popolazione italiana, diceva un articolo, fa almeno un pasto al giorno fuori casa. Si può immaginare quanto denaro venga movimentato anche per esempio dalle mense. Le cito le mense perché sembra che soprattutto in queste situazioni sul pesce si tenda a risparmiare. Allora, comprare del pangasio, per esempio, poi è stato ribattezzato anche pesce truffa, un pesce che arriva in particolare da uno dei fiumi più inquinati del mondo, cioè il delta del Mekong, ma a un prezzo ridicolo, e comprare questo pangasio e servirlo a mensa è diventato molto comune. Ha dei valori nutrizionali scarsi, ma costa circa un euro al chilo o anche meno. Chiaro che si risparmia servendo questo tipo di prodotto. Certo, il problema è non solo che si risparmia, il problema è anche che qualche volta il pangasio viene offerto nelle mense o qualche volta addirittura in vendita come sogliola, perché è simile, una volta stilettato, una volta preparato è anche simile alla sogliola, allora c'è anche proprio una truffa vera e propria, tenendo presente soprattutto che la sogliola, che il pangasio è un pesce d'acqua dolce, quindi insomma siamo veramente alla follia. In più è un pesce allevato, che ovviamente però i produttori dicono essere allevato non direttamente nell'acqua del Mekong, ma in stagni, bacini, laghetti, non so si allevano i polli, i maiali. Quali sono i problemi con il pesce d'allevamento? C'è chi dice è diverso, ma secondo lei è un'osservazione da snob? No, non è un'osservazione da snob. Il pesce d'allevamento è un pesce che ha i pro e i contro, nel senso che se sono ad esempio bivalvi, se sono come dire cozze, vongole eccetera, è un allevamento di cui possiamo non solo fidarci ma fidarci ad occhi chiusi, perché sono acque controllate, cioè sono autorizzati in zone di acque controllate, e quel tipo di organismo non ha bisogno sostanzialmente di essere nutrito, filtra dall'acqua in cui sta i microorganismi che gli servono per nutrirsi, quindi sostanzialmente non richiede energia, diciamo, e oltretutto ci pulisce l'acqua. Quando invece si tratta di pesci erbivori, la situazione è un pochino migliore, è abbastanza buona, perché comunque richiedono mangimi che non implicano farine di pesce, che non implicano il fatto che si debba comunque pescare per nutrirli, però è anche vero che i pesci erbivori non vengono particolarmente amati dal mercato, insomma sono un consumo molto... Li vogliamo citare? Ma le trote, le carpe, insomma tutti questi pesci che hanno, per carità, hanno le loro tradizioni, sono sicuramente... Ma non sono in cima alle preferenze, sicuramente. In aree regionali, però certo non sono tra i top ten delle tavole degli italiani. Senta, Cinzia Scaffidi, prima di congedarci, noi attendevamo anche una risposta dal Ministero per le politiche agricole e forestali, dal ministro Zaia o dal sottosegretario con delega alla pesca Bonfiglio, purtroppo oggi non è riuscito a liberarsi, ma secondo lei, volevamo concentrarci anche su questo problema del Mediterraneo che si svuota di pesci, quali interventi sarebbero necessari e perché succede? Allora, il Mediterraneo si svuota di alcune varietà di pesce, perché su circa 500 specie edibili noi ne consumiamo una ventina e insistiamo con la pesca e con il consumo sempre su quelle, e allora è evidente che il Mediterraneo, che è un mare particolare e con equilibri molto delicati, ma è un mare ad altissimo tasso di biodiversità, se noi distribuissimo la nostra voracità su un numero più alto di specie, riusciremmo a mantenere degli equilibri, insistendo sempre sulle stesse, per via anche di una pigrizia, di un'omologazione diffusa, sì. Sì, anche del fatto che siamo meno bravi a cucinare, che abbiamo voglia di fare sempre le cose ai ferri, così vogliamo quello che insomma... Quei pesci a forma di bistecca piacciono, sì. No? Senza spine, eccetera, che è un altro dei problemi delle mense, perché anche i bambini poi vengono educati a mangiare cose che non diano nessun tipo di problema, che non implicano nessuna manualità, e quindi certo che poi si beccano il pangasio. E quali sono poi i pesci a rischio di estinzione nel Mediterraneo dunque? E quindi i pesci che in questo momento sono in sofferenza sono tutti i pesci a ciclo vitale lungo, come i tonni, come i pesci spada, mentre sarebbe molto più sensato consumare pesci a ciclo vitale breve, come tutto il pesce azzurro, sostanzialmente molti tunni di minori, cioè pesci che hanno una stagione, che arrivano all'età adulta e riproduttiva in un tempo breve, e quindi agli shock di pesca reagiscono in tempi abbastanza contenuti, si chiamano tempi di resilienza questi. Allora, Cinzia, purtroppo dobbiamo concludere, è estremamente interessante parlare con lei, anche perché per essere un paese con questa percentuale, con questa lunghezza di coste, più di 7000 km, siamo estremamente inconsapevoli degli animali che popolano i nostri mari, e sgombro, sugarello, lo zerro, il pagello, sono degli elementi sconosciuti per moltissimi di noi, quindi una cultura si dovrebbe diffondere anche a livello scolastico. Grazie naturalmente per questo viaggio, voglio ricordare che Cinzia Scaffidi dirige la direttrice, il direttore del Centro Studi di Slow Food, insegna all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno e ha scritto un libro, si intitola Guarda che mare, come salvare una risorsa, edito appunto da Slow Food. Grazie, buongiorno Cinzia. A presto. Domani ritorneremo alle 7:30 con 24 Mattina. Per ora un saluto da Irene Zerbini.